È sicuramente difficile definire il cinema di Rodriguez in un modo solo, perché lui spazia appunto da film per bambini a film come Planet Terror decisamente diversi. Qual è, secondo te, visto che hai studiato un po' tutta la sua filmografia, il motivo che lo spinge a spaziare così tanto fra i generi, fra i modi di... Anzitutto, penso abbiamo un grande amore in generale per ogni tipo di genere cinematografico. E la cosa che lo spinge a diversificare la sua filmografia e a orientarsi soprattutto sul cinema per famiglie è il fatto di venire lui stesso da una famiglia molto numerosa. Era il secondo o terzo di 10 fratelli, quindi è cresciuto sempre fra bambini che gli facevano sia da troupe che da attori, e i primi film che ha fatto erano commedie su ragazzini o comunque cose per famiglie o su famiglie, e questo poi si è visto con Spy Kids, con gli altri film che ha fatto, e poi lui stesso se ne è fatta una sua anche altrettanto numerosa perché ha 5 figli, e quindi l'amore per la famiglia penso si è sempre riversato prima nel privato e poi nei film. C'è un titolo che secondo te meglio degli altri identifica, può far capire chi è Rodriguez tra quelli che ha fatto finora, oppure essendo così vario è difficile? Ma guarda, sempre tenendo conto di questo doppio filone che lui tiene e continua a tenere, io credo che fra i film, diciamo, più tra virgolette per adulti, ma sia il primissimo, proprio il Mariachi, lo rispecchi abbastanza, perché era un tipo di film che proprio se ne fregava delle regole tradizionali di come si fanno i film, era fatto con molta energia, con pochi mezzi e con molta originalità, e credo che siano tre caratteristiche che lo rispecchiano a fondo. E, oppure poi sempre rimanendo nel filone per adulti, diciamo Planet Terror, l'ultimo anche penso sia il più compiuto, e nel libro ho definito un po' una somma di questi 10-15 anni di esperienze che ha fatto al cinema, e perché è riuscito a creare lui, che comunque si è sempre ispirato all'universo fatto di cartoni animati, di fumetti, è riuscito a creare un film che sembra un fumetto, ma in realtà è originale, è frutto della sua fantasia, e non come ad esempio invece Sin City, che era praticamente la traduzione al cinema di un fumetto esistente. Planet Terror sembra un fumetto, però è un fumetto nuovo, innovativo non c'è mai stato fino adesso, invece col film ci sta. Per quanto riguarda la filmografia per famiglie, sicuramente i primi due Spy Kids, tra le cose che ha fatto per i bambini, per film per famiglie, sono i più strutturati, i meglio riusciti. Gli altri due forse sono quelli, gli altri tre anzi, perché adesso ne c'è uno nuovo in uscita, sono quelli che forse piacciono di più ai bambini, proprio al pubblico di più piccolo in particolare, perché in particolare Le avventure di Sharkboy e Lavagirl sono dei film che hanno delle trame proprio adatte a un pubblico veramente sotto ai 10 anni. Anche perché l'ha scritta con gli ultimi due film, l'ha scritta con uno dei figli, che ha anche lui poco più di 10 anni, quindi insomma, perché poi lui ha sempre voluto e l'ha sempre detto, ha detto: mi piacerebbe tornare a quando avevo 8 anni, a quel tipo di immaginazione lì. Avendo dei figli è il modo più vicino per fare questa cosa che ha sempre avuto in mente, insomma. E quindi si rivolge a loro per cercare di dare al pubblico giovanissimo quello che in realtà vuole, quello che gli piace.